nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 21 maggio, il sole in regione è sorto alle 5.29, tramonterà alle 20.40. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Alla scoperta del non abbastanza noto acquario di Aris di Rivignano, dove l'attività scientifica e di tutela si accompagna ad una marcata impronta didattica rivolta anche ai più piccoli sulle specie ittiche delle acque dolci e salmastre della regione. Nella rubrica del bio protagonisti i sovesci estivi, mentre in quella del vino parleremo del giusto tempo per raccogliere l'uva. Con l'esperto della forestale continua il viaggio tra i giganti dei boschi, nell'orto invece è tempo di coltivare e gustare le fragole. Per l'angolo del gusto le albicocche, una ricetta per accostarle a carne affettati e una più tradizionale e dolce. Andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni per la settimana entrante con una nota di climatologia locale e proverbio friulano chiudono la puntata. Terminato la scorsa settimana il nostro tour tra gli istituti di agraria del Friuli Venezia Giulia, vogliamo oggi continuare a parlare di didattica, non da una scuola ma da un acquario, o meglio da un laboratorio di idrobiologia, quello di Aris di Rivignano. Ne parliamo con Paola Zanutel, che è referente di questa struttura, che è gestita dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico del Friuli Venezia Giulia. Dottoressa Zanutel, Aris di Rivignano, da un punto di vista naturalistico intanto, che zona è? Ci troviamo nel pieno della zona delle risorgive, all'interno del Parco dello Stella. Qual è la storia di questo acquario? Questo acquario è nato più di 20 anni fa. È nato in una struttura che era del Consorzio delle Venezie Giulie e inizialmente erano stati realizzati i vasconi tradizionali, degli acquari tradizionali. Nel 2009 invece è stato ristrutturato. Con un contributo della Comunità Europea sono stati realizzati gli ambienti e all'interno troviamo le specie ittiche. È un compendio delle specie ittiche che esistono in Friuli Venezia Giulia, molte sono particolarmente interessanti perché sono endemiche, ci sono solo qui. All'interno dell'acquario possiamo conoscere più di 40 delle specie ittiche che noi abbiamo. In Friuli Venezia Giulia ce ne sono circa 54, non solo delle acque dolci ma delle acque interne, con due vasche di acqua salmastra. Ci sono sia specie autoctone che alloctone e alcune di queste sono proprio endemiche. Non se ne parla più molto negli ultimi tempi, ma qualche anno fa lo si faceva di più. Il famoso gambero rosso della Louisiana, una di quelle specie aliene che ha invaso, in questo caso, le nostre acque, soppiantando quasi il gambero locale. Qual è la situazione in questo momento? Il gambero rosso della Louisiana non è stato eradicato, non è più presente in due zone, in un affluente del Cellina, nella zona vicino a Udine ci sono ancora degli esemplari ma si sta lavorando in tal senso, sono molto presenti nella zona della Bassa Friulana, si sta lavorando per contenerli. Ci sono altre specie ittiche a rischio? Certo, la prima proprio che mi viene in mente è l'anguilla. Tant'è che quest'anno proprio il Ministero ha emesso un decreto di divieto per tutto il 2023 di pesca sportiva dell'anguilla e ha messo delle limitazioni anche relativamente alla pesca di mestiere e al commercio. L'acquario riesce a fornire anche uno spaccato quindi degli effetti del cambiamento climatico e anche dell'antropizzazione sull'ambiente, sul territorio? Certo sì, perché questo? Perché all'interno noi facciamo conoscere anche le specie aliene che sono arrivate qui per ragioni, naturalmente prima di tutto l'uomo le ha portate, ma si sono adattate benissimo proprio perché ci sono stati dei cambiamenti climatici. Voi organizzate molte visite, vengono da voi studiosi, vengono da voi giovanissimi. Quali sono le vostre attività? I nostri ospiti sono naturalmente le scuole di ogni ordine e grado. Da noi arrivano dall'infanzia all'università i corsi di biologia. Poi vengono anche i privati, specialmente nei fine settimana. Noi siamo aperti anche il sabato e domenica e le festività. Con le scolaresche facciamo delle attività concordate con i docenti. Facciamo attività di accompagnamento all'interno dell'acquario, descrizione delle specie ittiche, osservazione. Ricordiamo che la struttura è abbastanza contenuta, ma rappresenta veramente quasi tutto lo spaccato. Poi c'è tutta un'area esterna. Nel 2007 abbiamo fatto delle passerelle che ci permettono proprio di passeggiare in un ambiente tipico di Risorgiva. Quindi ci sono germani, follaghe, gallinelle d'acqua, una serie di pesci che vivono in quell'ambiente, altri tipi di uccelli, il martin pescatore, marangoni minori, eccetera. Per rigenerare il suolo e arricchirlo di azoto è arrivato il tempo di pensare ai sovesci estivi, di cui ci dice Cristina Micheloni. Ma perché dobbiamo fare pure i sovesci d'estate? Ma più o meno per le stesse ragioni di quelli invernali, ovvero proteggere il suolo dagli eventi meteo, dare da mangiare alla miriade di utilissimi organismi che vivono nel suolo e che mangiano sostanza organica, facilitare la creazione di una buona struttura del suolo, in grado di gestire l'acqua sia nei periodi di carenza che di eccesso, riequilibrare i nutrienti e aumentarne la disponibilità per le colture che seguiranno. Un terreno nudo perde fertilità d'inverno e anche d'estate, quando l'humus si ossida a causa delle alte temperature, la struttura si compatta ed eventuali precipitazioni intense creano seri problemi. A ciò si aggiunge il fatto che un terreno nudo è un invito a nozze, soprattutto d'estate, per i semi di malerbe presenti nei primi centimetri di suolo. Insomma, i motivi ci sono, tanti e robusti. Ma quando si seminano i sovesci estivi? Ad esempio dopo un cereale autunno-vernino, o dopo la bietola, oppure dopo un pisello. Ovviamente se non si pensa ad una seconda coltura, in orticoltura, prima dei trapianti delle colture autunnali. Insomma, ovunque ci siano un paio di mesi vuoti. Ovvio che le specie sono diverse da quelle autunnali, ma i criteri di scelta rimangono gli stessi. Meglio i miscugli, cereali per la cellulosa, leguminose per l'azoto, ma considerate anche le fioriture, per tipo e per momento, e l'importante effetto che hanno verso i pronubi e verso altri insetti. Qualche esempio: grano saraceno, una bella fioritura, una bella quantità di sostanza organica, panico, facelia, anche qui in questo caso un fiore molto bello e molto appetito dagli pronubi, sorgo da foraggio o sudanese, una grande quantità di sostanza organica, il Niger, che è una composita molto resistente al caldo. Meno frequenti le leguminose, che si beano dalle alte temperature estive. Accanto alle più note vigne nel senso di fagiolo dall'occhio, fagiolo mungo, eccetera, perché non provare la trigonella o fieno greco, la lupolina, la medicago lupolina, anche molto competitiva verso le malerbe, la crotalaria, anch'essa competitiva verso le malerbe, ma anche molto resistente al caldo e alle condizioni con poca disponibilità idrica. Al solito, a meno di necessità particolari come quelle della facelia, per dire, sempre è meglio essere risparmiosi sulle lavorazioni del suolo, quindi dove possibile preferire la semina su sodo, che ci fa anche anticipare di qualche giorno la possibilità di seminare. In commercio ci sono diversi miscugli pronti ed anche la scelta delle singole specie può essere fatta in base alle varietà. Diciamo che le ditte sementiere hanno lavorato molto sui sovesci negli ultimi anni e i risultati si vedono. Tuttavia, nulla vieta di riutilizzare della semente propria, anche mescolata in casa. Ma perché ve ne parlo con tanto anticipo? Perché in realtà non è poi così tanto. Se pensate a informarvi adeguatamente, ordinare la semente, fare richiesta di deroga qualora non trovaste semente bio ma solo convenzionale non trattata. Intanto cominciamo con il primo punto, informarsi. Lascio alla pagina Facebook della trasmissione un link ad una bella pubblicazione. Parliamo ancora della macerazione del pigiato nella rubrica tutta dedicata al vino. Roberto Zironi dell'Università di Udine ci guida alla giusta data di raccolta dell'uva. La maturità tecnologica, quella aromatica e la maturità fenolica sono caratteristiche indipendenti dell'uva di cui bisogna tener conto, separatamente, nella valutazione della maturità enologica, cioè del momento della raccolta in cui nell'uva abbiamo uno stato di equilibrio compositivo tale da consentire la produzione di vini dotati di elevata qualità. Il livello di maturazione delle uve si valuta normalmente attraverso l'analisi degli zuccheri, dell'acidità totale, del pH ed eventualmente degli acidi tartarico e malico. Per la gestione delle tecniche macerative, a queste analisi si aggiungono quelle relative alla maturità fenolica, ovvero il tenore complessivo in sostanze di questa classe, la loro struttura e la loro estraibilità, da cui dipende la cinetica del loro passaggio nel mosto nel corso della vinificazione. Per la determinazione del contenuto fenolico totale dell'uva sono stati proposti diversi metodi che tuttavia si sono rilevati inadeguati fino a che negli anni 90 il professor Glory dell'Università di Bordeaux ha proposto un metodo molto semplice oggi universalmente accettato. La vite, come altre piante, produce a maturità frutti carnosi, saporiti, ricchi di sostanze nutrienti e vivacemente colorati che attirano l'attenzione anche dell'animale uomo. Questo animale, come gli altri animali, preferisce i frutti sensorialmente gradevoli a quelli sgradevoli. L'uomo preferisce le bevande fermentate ottenute da questi frutti, caratterizzate da tannini voluminosi, setosi e dolci, rispetto a quella che li presenta stringenti, con sensazioni vegetali da acide e anche amari. Il consumatore preferisce un vino caratterizzato da aromi di frutta matura piuttosto che di frutta acerba. Gli indici proposti da Glory danno utili indicazioni tecnologiche, ma purtroppo non descrivono la qualità sensoriale delle uve dei vini da esse ottenute. Alla fine degli anni 90, l'Istituto Cooperativo du Vin, l'ICV, di Montpellier, ha fornito le basi per rendere il più possibile oggettiva l'analisi sensoriale dell'uva da vino e quindi anche i suoi livelli di gradevolezza, proponendo una metodica basata sulla valutazione di parametri definiti. Queste analisi prevede che dopo l'esame visivo e tattile dell'acino siano valutati in successione la polpa, la buccia e infine i vinaccioli, prendendo in considerazione numerosi parametri e quindi viene attribuito un punteggio registrato su una apposita scheda. Questa tecnica, che quantifica le qualità organolettiche dell'uva, è oggi molto diffusa. In particolare, un'analisi sensoriale modificata delle uve che l'enologo può applicare in campo, prelevando e degustando gli acini raccolti, camminando tra i filari, rendendosi conto personalmente delle qualità organolettiche e fitosanitarie del prodotto che dovrà vinificare. Continua il nostro viaggio tra i grandi alberi con Dario Di Gallo, ispettore della Forestale. Proseguiamo oggi la nostra trattazione dedicata agli alberi monumentali, andando a vedere quali sono i criteri tecnici e legislativi che portano un albero ad essere definito tale. La legge regionale 23 aprile 2007, numero 9, norma in materia di risorse forestali, reca al suo interno la disciplina regionale in materia di grandi alberi, in coerenza ai principi della legge quadro nazionale 10/2013, che l'articolo 7 contiene la definizione di albero monumentale. In base a questa definizione, sono dunque potenzialmente monumentali gli alberi isolati, facenti parte di formazioni boschive, naturali o artificiali, i filari e le alberate, anche quelli compresi nei centri urbani, e gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche, anche private, che costituiscano nel loro complesso un simbolico esempio di maestosità e longevità, o che mostrino un particolare pregio naturalistico, per rarità della specie e particolare architettura vegetale, che abbiano un pregio paesaggistico o che costituiscano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, religioso, culturale, documentario e delle tradizioni popolari. Nel territorio della nostra regione, i grandi alberi, presenti nelle realtà urbane e civile, sono stati tutti ormai censiti e catalogati nell'elenco regionale degli alberi monumentali, mentre in natura esistono probabilmente ancora degli esemplari non conosciuti, in particolare nelle valli alpine e prealpine più selvagge, remote e poco accessibili. Chiunque abbia l'impressione di avere scoperto una rarità può segnalarla nelle stazioni forestali, che provvederanno poi a studiarne le caratteristiche per proporne, se conforme alla normativa, la loro tutela come monumento naturale. Resta il fatto che se vogliamo che questo prezioso bene della nostra vita resti disponibile anche per i nostri figli e le generazioni future, è importante prenderci cura degli alberi intorno a noi, pensando che alcuni di questi diventeranno poi gli alberi monumentali del nostro domani. Primavera nell'orto con Sara Bosco, oggi protagoniste le fragole da coltivare anche sul terrazzo di casa. Nonostante il clima instabile, il mese di maggio è caratterizzato da numerosi prodotti freschi locali, tra cui uno dei più attesi è la fragola. È una pianta rustica che si adatta bene ai diversi climi, teme però i ristagni idrici, perciò è molto importante dedicare più tempo nella preparazione del terreno affinché si presenti soffice. Per ovviare anche a questo inconveniente vengono predisposte le aiuole rialzate in modo che l'acqua scoli velocemente. Spesso viene utilizzata anche la pacciamatura per impedire anche alle erbe infestanti di competere, quindi anche per i nutrienti che noi andremo a dare alle piante. Generalmente viene messa a dimora la piantina in quanto i semi sono molto piccoli e non di facile gestione. Vengono poste a distanze di 30 cm sulla fila e di 50 tra le file. Un altro metodo per aumentare poi la quantità di piantine per l'anno successivo è l'utilizzo degli stoloni che si accrescono dalle piantine principali e che sono in grado di radicare. La fragola non necessita di un'elevata quantità di terra, perciò è possibile coltivarla anche sul balcone o sul terrazzo in vasi o in altri contenitori. In questo caso bisogna ricordarsi di porre sul fondo dei contenitori un materiale che permetta lo scolo delle acque. La parte più complessa della sua coltivazione è la concimazione, in quanto sono piante che amano terreni fertili e ricchi di sostanza organica, perciò va eseguita una buona concimazione di fondo, anche con letame o stallatico, e poi vanno effettuati degli interventi prima della ripresa vegetativa e dopo l'inverno e in fase di fruttificazione, anche mediante dei concimi liquidi. Questo frutto è un prodotto che, se viene coltivato con una buona concimazione, permette di ottenere un ottimo prodotto e soprattutto sano. Questa domenica Roberto Zottar porta in tavola le albicocche con ben due ricette, una più tradizionalmente dolce, l'altra che le vede abbinate a carni affettati. Arrivata con gli arabi, l'albicocca è un frutto elegante, quasi aristocratico, che si presenta per primo sul mercato della frutta di stagione. Da gustare fresca oppure essiccata, sciroppata sotto forma di confetture, è dolce ma con una leggerissima nota acidula, succosa ed estremamente versatile, e regala un gusto unico a torte, crostate e delizie al cucchiaio calde e fredde. È il frutto dell'albicocco Prunus armeniaca, che appartiene alla famiglia delle rosacee e al genere Prunus, cui appartengono anche ciliegia, prugna, mandorla e pesca. Il profumo è naturalmente dolce, la sua consistenza e il colore ne hanno fatto la sua fortuna nei secoli e nella letteratura, rimandando alla delicatezza femminile, all'amore e all'eros. «Siate gentile e cortese con questo cavaliere, d'albicocche nutritelo», ordinava Titania, regina delle fate, ai suoi sudditi, tra le pagine del Sogno di una notte di mezz'estate. Era invaghita di un uomo e Shakespeare le fa utilizzare quello che nel 600 era considerato un frutto afrodisiaco e magico. I romani la chiamavano armeniacum, cioè mela armena, o anche precox, cioè precoce, perché maturava prima della pesca. Il nostro albicocca, così come l'apricot francese, l'apricot inglese o lo spagnolo albaricoque, derivano invece dall'arabo albaracuc. Oggi vi propongo un'antica ricetta di albicocche sott'aceto per accompagnare lessi o anche antipasto di affettati. Bollite un litro di aceto bianco con 150 g di zucchero, 15 g di sale e 3 foglie di alloro. Aggiungete 2 kg di albicocche denocciolate, fatele bollire per 5 minuti, scolatele, pelatele, fatele raffreddare su un canovaccio e distribuitele poi in vasi. Ribollite il liquido di coltura filtrato e riempite i vasi, chiudete e fate riposare per 2 mesi. Per chi non ama l'agrodolce del sottaceto, propongo invece una torta golosa e profumatissima. Ricoprite la base di una tortiera con una frolla fatta con 75 g di farina, 75 di burro, 35 di zucchero, un pizzico di sale e cuocete a 180 gradi finché prende colore. Tagliate in quarti 1 chilogrammo scarso di albicocche denocciolate e mettetele sulla base cotta. Sbattete 2 uova intere con 180 g di zucchero, un pizzico di sale, la buccia grattugiata di un limone e i semi di un bacello di vaniglia. Sempre sbattendo aggiungete 150 g di burro morbido e amalgamate infine 150 g di farina setacciata. Non serve il lievito. Versate la montata sulla frutta e cuocete in forno a 170 gradi per quasi un'ora. Il croccante burroso della base si sposa perfettamente con il morbido aspro della frutta e il dolce dell'impasto. Buon appetito! Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato debole, con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 23,90 e 24,20 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 24 e 24,50, e la soia tra 44 e 44,50 euro il quintale. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 12 euro il quintale e la soia di 22,80 euro il quintale. Nel comparto zootecnico è proseguito l'andamento costante delle ultime quotazioni dei bovini da macello. Le vacche a fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 3,20 e 3,70 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda fra 2,60 e 3,20. Contrattazioni in lieve rialzo invece nel settore dei vitelli da ristallo, dove i blubelga maschi vengono quotati tra 6 e 6,60 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,70 e 5,20, i frisoni tra 1,90 e 2,20 e i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Mercato con dinamiche stabili nel comparto suinicolo, con i lattondoli di 30 kg quotati franco partenza a 4,58 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 2,06. Rispetto ad un anno fa i lattonzoli sono aumentati di 1,25 euro il chilo e i grassi di 54 centesimi. Nel settore caseario la commissione camerale di Pordenone Udine recentemente ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo fra 55 e 57 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Ha confermato invece il montaggio di 90 giorni tra 8,70 e 8,90 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 9,80 e 9,90, lo stagionato 12-15 mesi tra 10,10 e 10,30. Prezzi riflessivi nel comparto dei foraggi, con leggero calo del fieno mazzengo di pianura che viene quotato tra 17 e 20 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità fra 33 e 34 euro. Con il previsore dell'ARPA, Gabriele Fasano, diamo ora un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Ieri è finita la seconda decade di maggio, che è stata condizionata da depressioni sia atlantiche sia mediterranee, le quali hanno portato su parte dell'Italia piogge anche eccezionali, nonché temperature sotto la norma. Sulla nostra regione le piogge sono state abbondanti ed anche persistenti, ma mai particolarmente intense o tali da determinare disagi significativi. Le precipitazioni hanno anzi ulteriormente ridimensionato il problema della siccità e quindi sono state senz'altro un bene nel contesto generale. Soprattutto nel destattagliamento, dove di fatto ha piovuto di più, si è maggiormente apprezzato il beneficio di piogge scese con gradualità ma anche con abbondanza, dato che i cumulati in una settimana hanno superato i 50 mm in pianura e i 100 mm sui monti. Oltre i 2000 metri circa è nevicato su tutto l'arco montano. Per il resto va segnalata la bora forte a Trieste di martedì 16, con raffiche ben oltre i 110 km all'ora, che hanno fatto registrare uno dei valori più alti per il mese di maggio. Passando alle previsioni, nelle giornate di oggi e domani avremo prevalenza di tempo buono, caldo in pianura con massime fino a 28 gradi e bora moderata. Nelle ore pomeridiane, tuttavia, sarà possibile un po' di instabilità, con qualche locale rovescio temporale che potrebbe svilupparsi sui monti e sull'alta pianura. Anche martedì e mercoledì saranno giornate un po' instabili, in particolare mercoledì, con prevalenza di nuvolosità variabile e la possibilità di rovesci o locali temporali in giornata, più probabili su monti e pianura. La tendenza successiva non vede l'affermarsi di particolari strutture a larga scala, con tempo che quindi potrà mantenersi all'insegna della variabilità, con occasioni per nuova instabilità nelle ore più calde. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Mai non le fure il fi, mai non le lune di mai, ovvero mai non è fuori il fico, probabilmente i fioroni, finché non c'è la luna di maggio. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.